tempo di sport. Adesso al Liverpool, quella di Boriello, una ricaduta di Milito. Io ho presente Milito che fa quello scattino nell'ultima partita e si blocca e si pianta, e sono immagini che si vedevano un tempo, insomma, secondo me, quando non c'era la cura che ci dovrebbe essere oggi. La cosa che sono ovviamente dei casi diversi, differenti, però la cosa che traspare di più, un po' per i contatti che si hanno con questi staff, un po' anche per quello che si legge sui giornali, è quella della, come dire, della discrepanza fra quello che è la volontà del giocatore, il ruolo del medico e il ruolo dei tecnici. Cioè, secondo me molti staff non sono così uniti come sembra, non sì. So se rendo l'idea, cioè ci sono delle come dire, il giocatore che ovviamente tira dalla sua parte perché vuole giocare o perché ha i propri interessi, l'allenatore e lo staff tecnico, cioè i preparatori che hanno le loro idee, il medico che chiaramente ha la propria posizione. Ecco, secondo me, io da medico, adesso prima ero giocatore, magari avevo una visione, ma da medico devo dire che, a mio modo di vedere, i medici italiani, che tra l'altro sono molto bravi, sono sicuramente fra i più bravi in campo europeo su questo settore, devono però riappropriarsi di una maggiore personalità. Cioè, secondo me, il medico deve incidere di più, nel senso di dire che se lui ritiene, secondo coscienza, che quel giocatore non debba giocare, deve imporsi a costo di lasciare la squadra. Perché secondo me è dire no, perché qui diventa c'è in ballo la tutela della salute dei giocatori. Cioè, il fatto di dire ma io lo faccio giocare perché l'allenatore mi tira per la giacca, non mi va bene una posizione di questo genere. La tutela della salute, che poi è anche la tutela di un patrimonio. Esattamente. Quindi secondo economico. Me io vedo dei medici bravi, ma che devono, secondo me, avere un po' più forza, a costo anche di dire rinuncio a quella che può essere, come dire, una vetrina importante, come quella di essere responsabile di una squadra di calcio. Medici che alzino la voce. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa conversazione che, come sempre col dottor Volpi, è di raro interesse. Tra poco, subito dopo poi i mercati, ci sarà spazio per i vostri interventi su questa o su altre materie. Mi piace che un paio di ascoltatori, per esempio lo stesso Federico D'Alessandria di prima, ma Massimo da Verbania, scrivano grosso modo all'unisono, anche se le formulazioni sono diverse, che a parer loro la prima misura di prevenzione sarebbe il campionato a 18 squadre. Io aggiungo anche a 16, magari, se fosse possibile. Assolutamente d'accordo. Concordo in pieno. Con questi... Sono 8 partite, quello a 16, conti li abbiamo fatti, sono 8 partite in meno, certo. Vuol dire innanzitutto non giocare il turno infrasettimanale e consentire ai giocatori di allenarsi di più. Ha una voce molto sentita, che fa, ma però importante, quella dei preparatori, che dicono ma noi abbiamo poco tempo per allenare, verissimo, quindi questo è un dato, cioè sono già 8 partite in meno, avrebbe più spazio la nazionale, sarebbero meno compressi i calendari e quindi ci sarebbero meno rischi per i giocatori, non c'è dubbio. Basta tornare all'epoca in cui si giocava a 16 e il calcio era già moderno, intendiamoci, era già veloce ed era già impattante, se vogliamo metterla così, con un neologismo, e non c'era minimamente questa percentuale di infortuni, Piero. No. Assolutamente d'accordo, concordo in pieno. Grazie allora di questa tua ennesima partecipazione. Grazie a te, Gigi, un saluto a tutti. Grazie, chiudiamo il collegamento col dottor Piero Volpi. Io leggo, ricavo dai messaggi che vi ha interessato questa parte. Ce n'era uno delizioso, adesso torno indietro a ripescarlo perché questo era divertente. Alberto da Treviso, Alberto, aveva scritto: sembra di ascoltare Essere e Benessere. Mi piacciono questi collegamenti tra sport e salute. Beh, insomma, non voglio fare concorrenza alla formidabile, non bravissima, alla formidabile Nicoletta Carbone, ma è inevitabile che ogni tanto in argomento sportivo, in materia sportiva, si facciano di questi, no? di questi approfondimenti, soprattutto quando è l'attualità a spingerli. Io credo che quello che ha detto ieri Buffon, che poi possiamo anche approfondire meglio in dettaglio, e quello che è successo a Marchisio siano due cose assolutamente di routine, non eccezionali, ma proprio perché di routine, provare a capire un po' meglio come vanno le cose possa servire. C'era un altro messaggio che non riesco a ritrovare ed è un peccato, perché si ricollegava a una grana della settimana scorsa, eccola qua. Ancora a Treviso, Francesco, che però non è quello di prima, scrive: siamo stanchi che Radio Maria copra le vostre frequenze, non potete fare qualcosa? Guardi, se potessi personalmente lo farei. La settimana scorsa ho usato l'aggettivo urticante e alcuni ascoltatori si sono offesi. Ne approfitto per spiegare che non era certamente riferito ai contenuti, che posso non condividere, ma non mi permetterei. Urticante l'aggettivo, era riferito all'invadenza di certe frequenze, e quelle di Radio Maria sono proprio urticanti vere, come dice il nostro amico di Treviso, nella loro invadenza e immanenza. Torniamo in trasmissione, e ci sono ancora molti altri messaggi da leggere, ci sono i vostri primi interventi, ci sono delle voci da ascoltare. Sono molto incuriosito da Milcare, che dice: chiede a Volpi, che cosa che però non posso più fare perché il collegamento è finito, se Ruud Krol è stato il primo e unico centrale a giocare da libero. Allora è un po' complicata, credo voglia dire che, essendo un olandese Krol, e quindi attuando loro a loro tempo una difesa a zona, era un centrale che poi invece è diventato libero. Questa sarebbe la metamorfosi secondo Milcare. Io senza consultare Piero Volpi non lo credo, anche perché Krol era l'esterno sinistro, era il terzino sinistro nella grande Ajax e poi nella grande Olanda in origine, poi si è spostato alla centrale dopo ed è diventato libero a Napoli, ma non credo assolutamente sia l'unico caso. Provincia di Como, Piero, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Sono molto onorato di parlare con lei. Beh, vabbè. Io avrei due domande da fare, riallacciandomi al discorso precedente del dottor Volpi. Sì. Allora, la prima è volevo sapere se lei avesse notizie riguardo il campionato inglese. I traumi sono così frequenti come in quello italiano? E poi può influire anche il fattore, diciamo, campo, diciamo, tappeto? Sì. Che i campi da calcio in Inghilterra, essendo molto più curati, sono anche meno, diciamo, soggetti a traumi, ecco, certo, di questo genere. E poi volevo capire come si fa a prevenire un trauma, visto che l'atleticità, la velocità del calcio di oggi, diciamo, ti porta una piccola, diciamo buca, un qualsiasi ti porta ad avere dei traumi così, ecco, complicati. Come si fa a prevenire una cosa del genere? Con l'allenamento, Piero, questo glielo dovrebbe, insomma, è chiaro che la risposta ideale sarebbe del dottor Volpi o di un medico sportivo. Io ci provo. Se parliamo di inglesi, intanto, appunto, l'ha detto lei, hanno campi migliori, nettamente migliori dei nostri, e questo indubbiamente muovendosi su terreni più idonei e meno pericolosi già riduce il rischio traumatico, per questo traumatico soprattutto parliamo di distorsioni da questo solo punto di vista. Aggiunga, credo che la mancanza di stress che c'è in un campionato che tradizionalmente da sempre è giocato in maniera molto più, è vissuto in maniera molto più allegra, molto più rilassata, anche se non sono gli aggettivi più indicati, rispetto al nostro, ma è vissuto in maniera più lieve, ecco, complessivamente, non avendo questo moltiplicatore, loro sono più fortunati. Lo stress è un moltiplicatore dell'infortunio, così come di qualsiasi aggravamento di patologia. Adesso mi sto muovendo fuori territorio, quindi spero di non dire troppe fesserie, però il concetto, mi creda, è abbastanza quello. Dopodiché l'allenamento, certo che l'allenamento non ti preserva dal trauma, se per trauma intendiamo scontro, ma l'allenamento però ti dà, più ti alleni e meno giochi e più hai benzina e hai la macchina al massimo dei giri per poter affrontare quegli sforzi e anche quegli impatti. Per questo la ricetta ideale sarebbe più allenamenti e meno partite, e questa è un'equazione su cui qualsiasi medico, preparatore, allenatore è d'accordo. Alfredo ha chiamato da Macerata, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, no, sono intervenuto perché l'ho ascoltata definire Cannavaro prima una vittima di una disguido, chiamiamolo disguido tra virgolette. Io credo che la versione sia poco credibile, perché cioè, parliamo di una società di prima fascia, una società di Serie A che gioca la Champions, insomma, non del Borgo Rosso, primo. Secondo, di una squadra canazzina, ricordo che è stata condannata per doping e poi salvata da un vizio procedurale. Su questo certo, sì, ma in un'altra gestione, in un'altra epoca. La gestione però, lei sa benissimo che... Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, su questo... Però, la tradizione lei sa che non va perpetrata, altrimenti, come si dice, diventa una tradizione di famiglia. Mm-hmm. Adesso detto questo, comunque, poi anche il soggetto stesso è incappato in un'altra situazione, tra virgolette, sospetta. Lei ricorderà il video, sì, in cui anche lì è stato vittima, consenziente, perché l'ho visto molto sorridente in quella situazione. Beh, io credo, Garanzini, che... ma sia poco credibile. Io le faccio, a lei che ama tutto sport, no? Lei immagini se quella vicenda avesse interessato il capitano Zanetti, che titolo avrebbe fatto tutto sport? Allora, che lei fosse interista era chiaro fin dalla prima, no, dalla prima battuta, così come appunto se fosse toccato a capitano Zanetti, il suo alter ego juventino sarebbe stato facilmente individuabile fin dal primo sorgere dell'intervento. Non mi metta per cortesia nei panni di tutto sport, perché ci starei davvero a disagio, e in quelli tra l'altro di parecchia altra gente. Io non ho difficoltà a ripetere che in un caso del genere Cannavaro mi sembra vittima di quello che è accaduto. L'ho detto prima, non mi è scappato, lo ripeto. Poi le dirò che usare la parola vittima a proposito di Cannavaro un minimo di eritema me lo suscita, però in un caso del genere non c'è nessun dubbio. Così come non c'è nessun dubbio che la gestione burocratica di quella pratica, e cioè del fatto della segnalazione di una pomata al cortisone per una puntura di Vespa o di Ape, quello che è stato, questa mancata... questo disguido di comunicazione da parte di una società come la Juventus, sono d'accordo con lei, è da Borgo Rosso Football Club, e su questo la Juventus farebbe secondo me bene a riflettere. Max è chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Dunque, io volevo intervenire per salutare il dottor Volpi, col quale abbiamo lavorato insieme, anche se lui non si ricorderà di me, ai tempi da Gaetano Pini, però ormai non è più in collegamento, pazienza. Poi volevo chiedere una cosa sulla quale lei comunque ha già risposto, cioè nel senso, faccio allora la considerazione, nel calcio, bellissimo sport ma troppi interessi, ci sono troppe partite che non servono più ad far allenare i giocatori, cioè secondo me i giocatori sono troppo costretti a giocare tra virgolette piuttosto che ad allenarsi, ed arrivano poi in condizioni non ottimali alle varie gare sulle quali devono giocare, insomma, si arriva male al campionato, non è in una gestione ottima. Certo. Cioè, secondo me è così, poi dopo magari posso anche sbagliare, però sono troppi soldi quelli che girano, le società sono costrette per pagare stipendi e robe di questo genere, i vari giocatori e anche loro stesse a guadagnare, e sfruttano, tra virgolette, i giocatori facendoli giocare e non facendoli allenare come certo, si deve. È un serpente che si morde la coda. Diciamo. Bravissimo, bravissimo. È una rana troppo gonfia, un serpente che si morde la coda. Usi lei l'immagine che preferisce, ma è autolesionismo puro, perché poi questi grandi giocatori che devono essere fatti giocare il più possibile, appunto per ragioni di cassetta, si romperanno sempre di più, sicché vede che c'è dell'autolesionismo involontario, ma dopo un po' non puoi nemmeno più concedere il beneficio dell'involontarietà, tanto questa cosa è palese, no? E basterebbe una riflessione comune per farla, perché poi scoppiano le polemiche furibonde. Adesso ce n'è una in corso tra la federazione portoghese e Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Perché? Perché Cristiano Ronaldo ne ha nella migliore ipotesi per un mese. La distorsione alla caviglia che ha riportato l'altra sera giocando contro l'Ungheria è brutta, c'è interessato anche la stragalo, insomma, leggevo prima una diagnosi abbastanza inquietante. Il Real Madrid sostiene con una certa ferocia anche, che è stato che Ronaldo aveva già una caviglia che scricchiolava prima, che Queiroz, il CT del Portogallo, non avrebbe dovuto farlo giocare. Queiroz dice: a me i medici l'hanno dato buono, e quindi con un opportuno bendaggio non vedo perché, se gioca nel Real in quelle condizioni, non possa giocare anche da noi. Vada lei a stabilire chi ha ragione, non è semplicissimo comunque. Giulio, provincia di Modena, buongiorno. Salve Garanzini. Dica. Io mi rilascio sempre al discorso sugli infortuni e sulle preparazioni in particolare. Io non entro nel, avete già detto tutto su quello che riguarda gli allenamenti durante la stagione. Per me è fondamentale un ragionamento. Si va per i soldi di andare a fare tournée e pre-campionati e quant'altro. Poi però mi viene un dubbio, qui sollevo una mia riflessione anche. Il fatto che questi giocatori poi magari dopo 2 mesi mancano in massa, perché se si infortunano in 3, 4, 5, queste squadre magari rischiano di uscire dalla Champions, rischiano di fallire i loro obiettivi di inizio stagione, non di fine. Certo. E allora dico, questi soldi presi a luglio, agosto, non è che magari poi per il gusto di fare tutto e subito, come si fa spesso oggi nel mondo aziendale, meglio il certo che l'incerto su cui si fa investimenti, e dopo ci si trova poi magari ad avere, anziché 3 milioni in più, se ne hanno 15 in meno, perché non si arriva agli ottavi di Champions. Ecco. Certo. Questo per me è un guardare le cose, non dico a lungo termine, a medio termine. Sì, vedere solo a breve. Difatti. Beh, insomma, il precampionato del Milan di quest'anno, tutto giocato con grandi impegni, con una squadra ridimensionata, e tutto giocato sul filo dei grandi impegni e sul filo dei viaggi intercontinentali, non può non essere chiamato in causa, giusto per fare un esempio concreto, rispetto al rendimento che il Milan sta avendo. Sentiamo ancora un altro amico ascoltatore. No, vi leggerei, a patto che allontaniate i bambini dai microfoni, vi leggerei le dichiarazioni di Cannavaro a proposito di quello che si stava dicendo prima. Io leggo direttamente dall'Ansa, quindi ripeto, se a parte che i bambini oggi non si impressionano per queste cose. In ogni caso, Cannavaro, capitano azzurro, dice: mi girano i coglioni. E se non avete capito bene, ribadisco, mi girano i coglioni. Poi domani arriverà la voce diretta e quindi ve la trasmetteremo. È diretto ed esplicito Fabio Cannavaro nel ricoltare la rabbia provata il giorno in cui è uscita la storia della sua positività. Io ho la coscienza a posto, ha detto il capitano azzurro, uno viene punto da un'ape e si ritrova sul giornale come se fosse un dopato. Quando è successo mi è sembrato di sognare, qualche giornale, qualche televisione hanno esagerato ed è la seconda volta che mi ritrovo gratuitamente sui giornali in storie del genere. Il riferimento è al filmato con le Flebo degli anni al Parma, uscito nel 2005. Ecco, quella volta feci una cazzata, ripeto, è sempre Cannavaro che parla, capitano della nazionale italiana. Fece una cazzata a farmi filmare, anche se la sostanza tuttora non è proibita. Questa volta la cazzata della Juve c'è stata, ma mi è sembrato tutto un po' esagerato. Spero che questo dubbio non mi segua oltre oggi. La mia carriera è stata esemplare e all'insegna della regola. Vabbè, qualche piccolo distinguo ci potrebbe essere sulla carriera esemplare, su certi rapporti che Cannavaro ha coltivato nella vita, indipendentemente dalle siringhe, di tutt'altro genere, ma insomma non si può avere tutto. Temo contagiata dal linguaggio di Cannavaro, Mariella, ripeto, da Castelfranco, provincia di Treviso, scrive: Radio Maria rompe davvero le... e poi spiega che cosa. Quindi evidentemente Cannavaro ha fatto proseliti, ma che le frequenze, che il problema delle frequenze ci sia e sia abbastanza serio, questo è indiscutibile. Vedo molti ascoltatori già collegati per intervenire, vorrei però prima ripassare almeno la storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 12 ottobre 1958. Alla quarta giornata di campionato, l'Inter travolge per 8-0 a San Siro la SPAL. Protagonista assoluto della goleada è l'italo-argentino Antonio Valentino Angelillo, autore di 5 reti. Angelillo eguaglia così il record di gol in una sola gara in maglia nerazzurra nei campionati a girone unico, fissato da Giuseppe Meazza il 9 gennaio del 38 in Inter Bari 9-2. La gara contro la SPAL registra anche l'esordio in Serie A del ventenne Aristide Guarneri, che diventerà una delle colonne dell'Inter di Herrera. Bella Marcord anche questo. Molti ascoltatori, anche parecchie voci da ascoltare. Diamo la precedenza a Saverio, provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Purtroppo la sento poco Perché la mia domanda non fa parte della trasmissione di oggi. Non la seguo più per motivi che sto poco in macchina all'ora della trasmissione. Però volevo dire, ma cosa facciamo in nazionale? Stoccasano, secondo lei, si può usare o no? Si può usare. Lo lasciamo ancora... Che ce lo invidiano un po' tutti, cioè dico io, siccome io so esattamente lei come la pensa e un po' la penso anch'io, con queste teste un po' così alla Balotelli, che dice lì ci vorrebbe due bussinara da tensarlo così, no? Però se quello lì è alto 1,80 m te le rende, poi che si fa? No, dico, cosa bisogna fare questo Cassano secondo lei? Possiamo lasciarlo giocare tranquillo, sperare che faccia una stagione in cui continuerà a creare, sperare per la Sampdoria innanzitutto, per lui e poi magari anche per la nazionale, che continui a giocare un campionato come ha giocato fino adesso, pur con qualche flessioncino nelle ultime due o tre giornate, e quindi crei un sacco di problemi di scelte a Lippi, perché se gli crei problemi di scelte significa che sta giocando bene, che sta facendo grandi cose e che la Sampdoria continua nella sua avventura. Io questo mi augurerei, poi non andrei oltre per quel che mi riguarda. Riccardo ha chiamato dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno dottor Gianni. Ascolti, io volevo dire soltanto questo, riprendendo il discorso del dottor Volpi, che è giustissimo quello che ha detto. Però il problema è che oggi le società vogliono i giocatori sempre e comunque in campo, quindi per forza di cose devono essere aiutati. E secondo me un problema fondamentale è quello che è stato riscontrato ancora una volta in Cannavaro, perché una volta con l'Afflevo, questa volta con l'antibiotico, io non credo che sia comunque solo ed esclusivamente un problema di Cannavaro, ma un problema generalizzato. Quindi secondo me queste sostanze qui, anche queste, causano, diciamo così, certi problemi muscolari che comportano poi anche grosse, gravi malattie, come ad esempio Signorini, che lei ricorda benissimo, o Borgonovo. Sì, però guardi Riccardo, che gli studi più recenti stanno dimostrando che il rapporto tra il calcio e la SLA è molto meno stretto, per fortuna, di quanto sembrava in un primo tempo o di quanto si direbbe. Questi sono gli aggiornamenti delle ultime ricerche, intendiamoci, non sono io che lo dico, io mi auguro che sia così, però non... No, i dati che vengono aggiornati ci sono state altre vicende invece che si sono concluse in maniera molto drammatica, e altre ancora stanno aspettando una conclusione. In questa storia invece mi pare di poter essere davvero abbastanza d'accordo sui termini che Cannavaro stesso ha usato. Poi io capisco che uno che in passato si è fatto filmare sghignazzando con una siringa in una vena, certe idiozie si pagano prima o poi, no? Cannavaro le ha ammesse, gli è arrivata questa, ed è per questo che lui è così furibondo, perché stavolta la scemenza non l'ha fatta lui, è stata una inadempienza grave dello staff medico e comunque organizzativo della Juventus. È per questo Cannavaro è così furibondo. Ha chiamato Andrea dalla provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno Gigi. Buongiorno. Volevo condividere brevissimamente con lei, con gli ascoltatori, un mio senso di apatia nei confronti della nazionale, dovuto sia al fatto che non ci sono più, dal mio personale punto di vista, dei giocatori simbolo, anche perché quando è stato provato, cioè, i vari Totti, Del Piero non hanno mai entusiasmato in nazionale come nelle squadre di club. La cosa però è accentuata anche dalla presenza, non me ne voglia se sia un suo amico o meno, di questi commentatori, Salvatore Bagni in primis, che secondo me fanno disamorare chi come me è appassionato di calcio e farebbe volentieri a meno di queste loro disquisizioni banali, scontate e oltretutto pagate. Penso anche profondamente che quei soldi li dessero terremotati dalla ricerca sulla SLA, secondo me sarebbe molto più salutare. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie a lei Andrea. Leggo ancora molti messaggi, messaggi interessanti, non so se c'è tempo per darli, ma volevo anche dar conto di qualche contributo. Per esempio il fatto che si sia chiusa in maniera così ingloriosa per un certo punto di vista e romanzesco da un lato l'avventura dell'Under 20 al mondiale mi sembrava meritasse una chiusura, e la chiusura più indicata è quella di Francesco Rocca, cioè dell'uomo che gli aveva contribuito certamente in maniera molto molto molto forte a portare questi ragazzini fin lì. Sentiamo Rocca. Personalmente ancora non smaltisco l'amarezza, perché avevamo preparato in modo diverso la competizione, non per tornare ai quarti ma per arrivare fino in fondo, e questo lo sapevano i ragazzi che pur nell'emotività della competizione spero che abbiano a trarre giovamento da una situazione del genere. Io mi auguro che i ragazzi, senza fare nomi specifici, perché loro sanno qual era l'obiettivo nostro, e non abbiano a rammaricarsi dell'occasione persa che non capiterà più nella loro vita. Ai miei giocatori gli avevo detto tutto, dall'inizio alla fine. Loro sapevano che questo qui era un livello straordinario col quale competere. Se vogliono fare i giocatori debbono passare da questo livello. Il sogno è stato interrotto e i sogni non ritornano. Che bella voce appassionata, Rocca nella sua passione, quella di Francesco Rocca. Scrive Leonardo da Bologna: probabilmente Cannavaro non ha colpe, non lo so, però quando succede una cosa del genere ad un ciclista va a finire sulla gogna. Considerando che danno la disponibilità per i controlli 365 giorni l'anno, lei chiede a un calciatore la disponibilità a fare i controlli d'estate in Messico. Questo è un ragionamento che ci sta, e come, io però ne farei anche un altro. Quanti casi ha avuto il calcio di positività negli ultimi anni e quanti casi ha avuto il ciclismo di non positività in questi ultimi anni? Una volta fatto quel parallelo, poi spieghiamo anche la disparità di trattamento. Grazie a Pietro Lacorte in regia, a Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio. A tempo di sport.